numeri innanzitutto, perché anche oggi consentono un filo di speranza. Per quanto il numero di morti ieri sia stato di altre 600 persone, il numero di attualmente positivi cresce di meno dell'1%. La quantità di nuovi casi scende costantemente da 3 giorni. Così si pensa a come e quando ripartire, la cosiddetta fase 2. Prima le aziende, dicono dal governo, poi i cittadini. Restano in piedi una serie di questioni. La prima riguarda proprio i numeri, mentre si apre il capitolo delle residenze per anziani. Quante sono davvero le vittime? La seconda riguarda le mascherine. Dove sono finite? E vanno messe oppure no? Ieri l'OMS non ha chiarito bene la cosa. Già, l'OMS è sotto attacco, soprattutto da parte di Donald Trump, che minaccia che all'organizzazione non vengano più pagati i contributi americani, in ore nelle quali negli Stati Uniti si contano 2.000 morti in un giorno. Poi c'è tutto il capitolo economico. L'Eurogruppo ha discusso stanotte anche di Eurobond. Le distanze tra paesi mediterranei e paesi del nord, Olanda e Germania su tutti, permangono, ma potrebbe profilarsi un accordo su altri fronti. E il decreto per dare liquidità alle imprese, del quale ancora non c'è un testo definitivo e che spaventa per il rischio che si areni di fronte alla burocrazia, che è il grande male italiano. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Oggi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, proviamo a farci un po' di coraggio con Bob Marley, il nostro inno ad aprire la trasmissione in questo periodo. Sono le 6:31 minuti, è mercoledì 8 aprile e iniziamo così questa puntata di 24 Mattino con Peter Bescapè in regia, Anita Panizza in assistenza e insieme a Giorgio De Luca. E con voi, come sempre, vi aspetto al 349-238-6666 per i vostri sms, messaggi WhatsApp e soprattutto WhatsApp audio, soprattutto le vostre voci in questo periodo, che ci fa particolarmente piacere sentirle. Si allenta un po' la tensione, lo avete sentito dai numeri. Una tensione che si allenta, che dà un po' di prospettive per il dopo Pasqua o per così dire l'inizio di maggio, con tutti i rischi connessi al fatto che la gente poi a questo punto, sentendosi un po' più rilassata, inizi a girare un po' troppo. Qualche segnale lo abbiamo visto nei giorni scorsi. E con il fatto che ovviamente si riapre tutto il polemicone tra il politico e il tema delle responsabilità, in particolare per quanto riguarda le aree della Bergamasca nelle quali ci sono state tutte quelle vittime. Iniziamo però da un quadro nazionale, con il ministro della Salute Speranza, che ieri a Di Martedì dice... Spiega così il punto nel quale siamo. E in questo momento è molto probabile, questo loro ci dicono, che siamo leggermente sotto il dato 1. E questo è un risultato straordinario se si pensa che solo poche settimane fa eravamo oltre il 3 in alcune aree del paese, siamo arrivati addirittura a 4. Questo cosa significa? Significa che ogni persona contagiata ne contagiava altre 4, altre 3, quindi c'era una moltiplicazione di tipo esponenziale, questa curva cresceva in maniera drammatica. Oggi essere intorno all'1 o, come ci dicono nelle ultime ore, addirittura leggermente sotto l'1, ci consegna una novità. E cioè che le misure hanno funzionato e finalmente possiamo provare a programmare il futuro. Programmare il futuro è giustissimo, ma dobbiamo farlo con i piedi ben piantati per terra. Anche perché, insomma, su questi numeri non ci sono molte certezze, lo diciamo tutte le mattine proprio per chiarezza. Cioè, noi prendiamo i numeri della Protezione Civile che ci vengono forniti ogni sera, alle 18. E per carità, poi sono i numeri sui quali si basano le decisioni politiche, però c'è tutto un sommerso. Innanzitutto il numero di contagiati, insomma, questi sono i contagiati accertati, quelli a cui è stato fatto il tampone, con grandi differenze tra regione e regione, quindi non sappiamo, in alcune regioni potrebbe essere molto più diffuso di quanto non pensiamo. E insieme alla sottovalutazione dei contagiati c'è una sottovalutazione presumibilmente del numero delle vittime. Ci arriviamo tra un attimo. C'è il grande tema delle residenze per anziani, sulle quali torniamo tra un istante, però ho qualche altra voce da farvi sentire prima, quella di Gianni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, proprio nella conferenza stampa del bollettino quotidiano della Protezione Civile. Finalmente sembra che si inizi a vedere una diminuzione nel numero di nuovi casi. Se noi lo plottassimo, lo mettessimo su una curva epidemica giorno dopo giorno, vedremmo che in questo caso finalmente, dopo una fase di plateau, sembra esserci una discesa nel numero di nuovi casi. Quindi la curva tende a flettere in basso. Naturalmente siamo cauti, no? Aspettiamo magari domani, dopodomani, prima di cominciare a tirare un sospiro di sollievo. Però la situazione sembra migliorare. La lotta sarà dura, aggiunge. Questo virus, comunque, a prescindere dalla diminuzione dei nuovi casi, resterà nella popolazione. Non è che arriviamo a zero dopo domani o fra una settimana o fra due settimane, allora tana libera tutti tranquilli. È chiaro, bisognerà comunque sia ingaggiare una dura lotta. Mi scrive un ascoltatore, ciao Simone, domenica e lunedì vedrai che vigili, carabinieri, polizia faranno una bella quantità di multe con tutta la gente che starà fuori. No, state a casa, eh? Per una volta Pasqua con i tuoi o da soli, insomma. Arriviamo tra un attimo alla questione della distribuzione delle mascherine, altro fronte un po' di scontro, di polemica, di tensione, però prima c'è tutta la questione dei numeri nascosti che dicevamo, ce ne siamo occupati, chi ci ascolta a quest'ora lo sa, più di una volta della questione di quello che succede nelle residenze sanitarie assistenziali, quelle nelle quali vengono portati gli anziani. E più di una volta da questi microfoni abbiamo parlato di numeri nascosti. La questione finalmente è esplosa a livello nazionale anche per il caso simbolico di quello che è successo al Pio Albergo Trivulzio di Milano, che è un luogo simbolico perché è il luogo dal quale è iniziata Mani Pulite, il che ha un po' scoperchiato un vaso che forse nessuno voleva scoperchiare, eh? E però succede che in realtà noi i numeri veri delle vittime di questo virus non li avremo finché non sapremo cosa è successo nelle residenze sanitarie assistenziali. È in linea con noi Sergio Sgubin, che è presidente di ANSDIP, è l'Associazione Nazionale dei Manager del Settore Socio-Sanitario. Buongiorno Sgubin, eccoci. Buongiorno. Questa è una questione che è stata sottovalutata ampiamente, mi pare. Beh, oltre che sottovalutata, è stata completamente dimenticata da quando c'è stato il decreto di emergenza per due mesi. Completamente dimenticata, dice lei. Completamente dimenticata. Solo fine marzo, primi di aprile hanno cominciato a interessarsi lo Stato e le regioni nel settore socio-sanitario e in particolare delle RSA per anziani. Se lei pensa che vi sono circa 260.000 posti letti in Italia, 60.000 solo in Lombardia, quindi sono numeri enormi, c'è un esercito. E voi che indicazioni avete da questi territori? Che cosa sapete? Allora, io ho attivato un coordinamento nazionale con i vari presidenti delle regioni dell'associazione, noi siamo presenti in quasi tutte le regioni italiane, abbiamo 8.000 contatti e siamo non fortemente preoccupati, siamo totalmente preoccupati dell'abbandono che c'è stato nei due mesi, che ha portato a dei decessi silenziosi, decessi che non vengono conteggiati dalla Protezione Civile, quindi i numeri che in Italia vengono elencati per quanto riguarda decessi e contagiati sono a mio avviso, per il nostro settore, soprattutto falsati in basso, in quanto vi sono... Ma voi Sgubina, avete dei numeri vostri? Siete riusciti a fare dei calcoli o no? Allora, i calcoli sono difficilissimi. Perché? Perché molte morti all'interno delle strutture non sono neanche considerati Covid, in quanto non viene fatto il tampone. Quindi non vi è la possibilità, in moltissimi casi, noi stessi che siamo addetti ai lavori, io faccio fatica a sapere nelle diverse regioni i numeri esatti dei decessi nelle strutture. Mi chiamano 40-50 persone al giorno, abbiamo dei rilievi, ma assolutamente non si riesce a capire neanche da parte nostra, figuriamoci quindi se sono censiti questi numeri, dei decessi, soprattutto nell'RSA. Immagini che una RSA media da 80-100 persone, nelle ultime settimane almeno il 20% degli anziani sono morti in questo periodo in diverse regioni italiane, soprattutto nel centro-nord. Io questi dati non li posso sommare perché non ho appunto il numero esatto, ma le realtà sono queste qua. Quindi è una cosa drammatica. Non è una cosa così di poco conto. Siamo fortemente preoccupati perché siamo rimasti soli nelle gestioni, in autoreferenzialità, senza le cure sanitarie negli ospedali, in quanto agli anziani, oltre che a interessare poco, tra virgolette, dal punto di vista sociale, sono gli ultimi ad essere assistiti per questioni di riempimenti degli ospedali, eccetera, come sappiamo, ma dall'altra parte allora non vi è certezza di cure sanitarie, per forza una cura sanitaria devono averla gli anziani e quindi ce l'hanno nell'RSA. Nell'RSA non sono aiutati, perché l'RSA non sono ospedali dove vi sono infettivologi, pneumologi, sì, e specialisti, non vengono aiutati nemmeno lì, quindi sono veramente abbandonati. Ci sono delle situazioni dove ci sono decine di morti all'interno delle strutture e il personale decimato è alla metà della pianta organica, le persone non riescono neanche ad alzarsi, sono a letto tutti i giorni, in alcuni casi, come abbiamo visto anche sulla stampa, è intervenuto l'esercito e hanno aperto le finestre per fargli vedere almeno il sole a queste persone. Quindi, una situazione veramente drammatica. Sì. Ci scrive un ascoltatore che ci dice: io sono Salvatore, si chiama un operatore appunto di una residenza sanitaria assistenziale, dice: venite voi a lavorare tutti i giorni con gli anziani con il sospetto del Covid-19 e la gestione non è facile. Ci sono dei racconti in queste ore, Sgubin, di luoghi nei quali le stesse dirigenze delle residenze hanno impedito di fatto ad operatori, ci sono anche delle denunce in procura, il che non vuol dire che la cosa sia provata, cioè ci sono semplicemente delle denunce in procura, hanno impedito agli operatori e in alcuni casi anche ai parenti degli anziani di indossare le protezioni. Questo è... I parenti degli anziani innanzitutto non possono intervenire nelle strutture perché c'è il decreto del blocco degli accessi. Adesso sì, parliamo degli inizi di marzo. Qua c'è un racconto, prendo dal Corriere della Sera, pagina 16, del signor Salvatore Nigretti, figlio di una donna ricoverata al più albergo Trivulzio, entrano con mascherine e guanti e gli dicono: li dovete togliere. Queste sono situazioni di grave responsabilità da parte di chi probabilmente non ha fatto bene il proprio mestiere, ma queste sono probabilmente cose episodiche oppure in qualche struttura, ma la grande, stragrande maggioranza delle strutture ha rispettato le norme, dice lei. Ha rispettato le norme, anzi qualcuno ha chiuso anche prima, ma alla fine ci sono delle regioni che non solo la Lombardia ma anche qualcun altro addirittura ha provato a inserire i Covid di bassa intensità all'interno delle strutture, qualcuno le ha anche prese perché magari era sottodotato di posti letto e poi si è diffuso anche in questo modo, sì, oltre ai sanitari che lavorano anche negli ospedali, lavorano anche nelle strutture, questo è evidente. Ascolti, l'ultima domanda che le faccio, e anche questa arriva da un ascoltatore e ha a che fare con i numeri. Ci dice un ascoltatore, ma quante sono effettivamente le morti ogni anno in un periodo normale all'interno di una residenza sanitaria assistenziale? Ossia, insomma, noi il paragone, no, su Covid-19 lo facciamo sempre sulla base di quanti sono i morti in un mese normale in quella provincia. Diciamo che in 3 o 4 regioni dove abbiamo calcolato in alcune strutture questa media è la metà di quelle che ci sono adesso. Ok, quindi il doppio in sostanza, siamo andati al raddoppio. La ringrazio. Grazie Sergio Sgubin, presidente di ASDIP, l'Associazione Nazionale dei Manager del Settore Sociosanitario. Il traffico e poi la maledetta questione delle mascherine, verremo anche all'Eurogruppo e al decreto del governo tra un attimo. Dunque, ci sono un po' di questioni. La prima è quella delle zone rosse ad Alzano e Nembro. Come vi dicevo, si sta alzando un po' di polemica e una riflessione sulle responsabilità. Si poteva fare la zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro nella Bergamasca? Ieri abbiamo assistito ad un pesante rimpallo di responsabilità nelle scorse ore tra il governo e la regione. Ieri l'assessore Gallera, Giulio Gallera, assessore al welfare Lombardo, che sarà tra l'altro nostro ospite oggi alle 8:40, ha detto: avremmo potuto farla, no, cioè dopo giorni nei quali ci è stato detto che la regione Lombardia non avrebbe potuto farlo da sola, apprendiamo invece che sì, avrebbe potuto. Sentiamo. Che io ero in collegamento diretto telefonico col professor Brusaferro, io e lui eravamo al telefono ragionando su questo e lui mi dice: assessore, stiamo chiudendo la richiesta formale e di istituzione della zona rossa al governo e siamo nel martedì 3 alla sera. Il 5 arrivano ad Alzano e Nembro un cospicuo numero di militari e quindi noi a quel punto abbiamo l'indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità che dice l'abbiamo chiesto al governo, arrivano i militari e noi attendevamo l'istituzione della zona rossa, cioè avremmo potuto farla noi. Ho approfondito l'indicazione che mi ha dato ieri, effettivamente. Sì, ma voglio dire, c'è effettivamente una legge che consente di. E insomma, lo potevamo fare. Il che non vuol dire, non è un'attribuzione di responsabilità alla Regione Lombardia, ripeto, queste cose andranno poi capite bene alla fine, perché contano anche i tempi su questo fronte. Però, insomma, a questo punto sappiamo che la Regione Lombardia ha appreso dopo che avrebbe potuto fare la zona rossa. Polemiche sulla Regione Lombardia anche sul tema delle mascherine. Domenica l'ordinanza che dice la dovete indossare tutti, e però non ci sono queste mascherine in giro. Il sindaco di Milano Sala. La Regione ha distribuito il suo stock di 3 milioni di mascherine ai comuni lombardi, a Milano ne ha date 120.000, onestamente meno in proporzione rispetto al numero di abitanti, rispetto a quanti ci aspetterebbero, ma ne stiamo acquisendo in giro per il mondo altre, perché è chiaro che il mio obiettivo è cercare in questa fase di darne a tutti. Queste prime 120.000 le diamo ai medici di base. E poi vabbè, un po' di speculazione l'abbiamo vista in giro su queste mascherine. È vero anche che chi le farmacie che le comprano a prezzi alti, no? E però il sindaco di San Severo, credo che siamo in provincia di Foggia, Francesco Miglio, uno sfogo che sta facendo un po' il giro della rete. Sentiamolo, va. Si devono vergognare coloro i quali in queste ore stanno vendendo mascherine che costano 1 euro a 10 euro. Vergognatevi, siete degli strozzini, vi dovete solo vergognare. Ho avuto notizie da alcuni cittadini che hanno acquistato in alcune farmacie della nostra città dei dispositivi di protezione a 10 euro. Vergogna! Vergogna! Avete avuto la visita dei NAS? Ve l'ho mandata io, non vi devo nascondere niente. Perché in questo momento bisogna stare vicino alla gente. Non è il momento del profitto, è il momento della solidarietà. Sì, poi è vero anche che magari una farmacia appunto la compra a quella stessa cifra e la rivende a prezzo di cosa. Però l'avete sentito, sente proprio la mano che fa così sul tavolo. Avete voluto, sono arrivati in ASVE, li ho mandati io. E poi rimaniamo in zona, il sindaco di Bari, De Caro, altro video nel quale va in giro a rimproverare la gente che, insomma, che si muove, a partire da un anziano. Sentiamo. Devi stare a casa, se c'hai problemi scendi, fai la spesa e te ne torni a casa. La spesa te la portiamo noi, puoi fare il domicilio, ci sono i volontari del comune, non devi andare in giro. No, stavo andando a mangiare da mia figlia. Perché secondo te io non voglio andare a mangiare da mio padre e mia madre? O loro non vogliono venire? Io abito a 20 metri dai miei genitori, 20 metri! Insomma, non ci vado io, non ci andare nemmeno tu. E va bene. Le questioni economiche. Allora, noi non abbiamo ancora gli esiti dell'Eurogruppo, della riunione tra i ministri economici dell'Unione Europea, dell'Unione Monetaria per essere precisi, nella quale si sarebbe dovuto discutere di Eurobond, e lo si è fatto, apparentemente ancora con uno scontro tra Italia e Olanda, in particolare in generale tra il fronte di alcuni paesi mediterranei e alcuni paesi del nord proprio sugli Eurobond. Siamo in linea con Veronica De Romanis, economista, docente all'Università LUISS, membro del comitato direttivo dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano. De Romanis, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, insomma, qua ancora non abbiamo i dettagli. Centeno farà una conferenza stampa alle 10 di questa mattina, però insomma, ci pare di capire che questa ipotesi di obbligazioni europee stia tramontando abbastanza rapidamente. Beh sì, la riunione è stata lunga, ancora non sappiamo quali sono i dettagli, come diceva lei. Per quanto riguarda gli Eurobond è complicato trovare un accordo, perché si tratta di mettere insieme il debito, quindi si tratta di prendere delle decisioni, che vuol dire come si spendono questi soldi, a cosa serviranno, quali sono le entrate che serviranno poi a rimborsare il debito, gli interessi, chi rimborserà nel caso in cui un altro paese non sia in grado di rimborsare. Anche nel caso nostro italiano, noi potremmo dover rimborsare debiti di altri. Ecco, siamo disposti a farlo. C'è bisogno di una volontà politica, non è un accordo semplice, richiede tempo. Infatti, probabilmente poi la decisione sarà rimandata dopo Pasqua al Consiglio europeo, dove si mettono insieme i capi di Stato e di Governo. Quindi Eurobond è uno strumento che in futuro ci sarà, perché ce n'è bisogno, perché è un passo verso l'integrazione, maggiore integrazione fiscale e quindi maggiore integrazione europea, ma non è uno strumento disponibile oggi. Questa crisi è drammatica, abbiamo bisogno di finanziamenti subito, questo pomeriggio, domani mattina, e quindi dobbiamo puntare su strumenti che sono attivabili subito. Sì. I punti del pacchetto dell'Eurogruppo. No, perché questo, mi scusi De Romanis, dato che se ne discute tanto, no? Questo è un punto importante che poche volte viene sottolineato. Se anche si trovasse un accordo sugli Eurobond stanotte, cioè se anche l'avessero trovato questa notte, non è che parti, non è che ti danno liquidità subito, non è che trovi i quattrini subito con gli Eurobond. È uno strumento complicato che va creato, va strutturato, insomma i tempi non sono brevi per nulla. I tempi non sono brevi perché tanto bisogna creare un fondo europeo, quindi bisogna cedere un pezzettino di sovranità fiscale di ogni Stato, quindi appunto c'è un accordo politico e va fatto. Vanno cambiati i trattati, quindi ci sono anche dei problemi legali. Non è uno strumento attivabile né nel breve né nel medio termine, ci vorrà del tempo. Ecco perché altri paesi rispetto all'Italia dicono: beh, utilizziamo quello che c'è subito e intanto mettiamo in cantiere gli Eurobond. E gli strumenti subito sono fondamentalmente il fondo SURE, quello per la cassa integrazione europea, la semplifichiamo terribilmente, i fondi della BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, e poi il famoso ISM, il fondo salva stati, sul quale il governo pare non voler cedere di una virgola. Ma questa è una posizione negoziale, a mio avviso, miope. Il meccanismo europeo di stabilità esiste, noi contribuiamo a finanziarlo, noi siamo il terzo finanziatore, è stato utilizzato in passato per una crisi che era diversa da quella di oggi, perché oggi lo shock è comune, anche se l'impatto nei diversi paesi è molto diverso. Ora, sediamoci al tavolo invece di dire no a priori e negoziamolo, adattiamolo alle nostre esigenze, si può fare. Chiediamo delle condizioni leggeri ex post, per esempio che l'utilizzo dei fondi sia per il coronavirus, che è esattamente quello che noi dobbiamo fare, che non è detto che noi dobbiamo utilizzarlo questo strumento, perché ci sta ad esempio in questo momento in campo la BCE con una potenza di fuoco mai vista sino ad enorme, oggi, che enorme, sì. Ci compra quasi che si è ampliata, che si è ampliata ulteriormente ieri questa potenza di fuoco, no? Esatto, quindi per ora c'è la BCE, sono state sospese le regole fiscali europee, quindi possiamo spendere debito. Però nell'eventualità un domani, perché purtroppo la crisi è lunga, possiamo adattare questo MES alle nostre esigenze. Non negoziare, eliminare uno strumento definendolo inadeguato è una strategia secondo me non vincente, perché purtroppo gli strumenti disponibili oggi non sono moltissimi, bisogna essere pragmatici. E fare propaganda politica in questo momento è un lusso che non ci possiamo permettere. Le aziende, le famiglie hanno bisogno di soldi subito. A proposito di soldi subito, c'è una grande preoccupazione in questo momento da parte delle aziende su questo decreto, no? Il decreto varato dal governo non è stato in realtà varato, nel senso che il testo definitivo ancora non ce lo abbiamo dopo due giorni, e questa è un po' una brutta abitudine, però insomma così è e a questo ci dobbiamo adattare. Dall'altra parte c'è una grande preoccupazione da parte delle aziende, De Romanis, per il fatto che insomma ci possano essere una serie di ostacoli burocratici in questa fornitura di liquidità, che non sono solamente di burocrazia ministeriale, non solamente di burocrazia territoriale, ma anche di burocrazia bancaria, che possano far sì che questi soldi, che servono subito, e su questo non c'è il minimo dubbio, non arrivino subito, ma magari in una settimana, 10 giorni, 20 giorni. C'è un problema, un rischio, un problema di questo tipo? Dunque, è vero, il testo non c'è ed è importante guardare un testo, perché poi i dettagli sono fondamentali. Ad esempio, quanto sarà il tasso di interesse? Si dice che è prossimo allo zero, ma anche lì bisogna capire bene alcuni elementi. Certo, c'è un problema di burocrazia, mancano, ci vorranno dei decreti attuativi, ci vorrà un'approvazione dell'Europa, quindi i tempi non sono di nuovo domani mattina, e invece la liquidità è necessaria ora. L'abbiamo già visto nelle scorse settimane con l'INPS, quanto è stato complicato, quanto è complicato, quanto la burocrazia può ostacolare poi alcuni strumenti che sulla carta sembrano positivi, ma poi invece per ottenerli è complicato. Poi però, dopodiché, una volta data liquidità, bisogna mettere le aziende nella condizione di riaprire, ovviamente in sicurezza, il prima possibile, perché bisogna evitare che ci sia un disallineamento tra paesi, cioè che altri paesi cominciano ad aprire prima di noi, sì. Perché questo creerebbe un problema molto forte per le nostre aziende. E questo è un po' il tema della famosa fase 2. Grazie a Veronica De Romanis per essere stata con noi. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.